madamina. Il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio, un catalogo lieve ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, no, in Spagna, ah, in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, con contesse e badonesse, marchesine e principesse, e van ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e va ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma. Sapete quel che fa Voi sapete